Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meli. Se isolare troppo le nostre case fosse controproducente, se cioè oltre un certo livello di isolamento i consumi invece di diminuire ricominciassero a crescere? Beh, questa sera parliamo di uno studio condotto dalla società Ross e dall'Università di Torino che porta esattamente a questa conclusione. Un dato che deve fare riflettere a maggior ragione se consideriamo che nei prossimi mesi, auspicabilmente perché siamo già in ritardo, l'Italia dovrà dare la propria definizione di edificio NZEB, cioè Near Zero Energy Building, che sarà il nuovo standard europeo a cui si dovranno attenere tutte le nuove costruzioni a partire dal 2020. Ma diamo il benvenuto al nostro ospite, che è Michele Vio, che è consulente di Ross, ma soprattutto past president di ICAR, che è l'associazione culturale che raccoglie i progettisti di impianti di climatizzazione. Buonasera Michele. Buonasera. Allora, senti, tu hai fatto, ci conosciamo benissimo, questo lavoro insieme al professor Stefano Corniati del Politecnico di Torino, che è anche lui una nostra vecchia conoscenza e che salutiamo. Allora, è vero quindi che esiste un livello di isolamento che è meglio non superare? E ti chiedo soprattutto perché? È assolutamente vero che non bisogna superare un certo limite di isolamento, soprattutto perché bisogna considerare che esistono i carichi interni dovuti alla presenza delle persone, quindi all'oggetto stesso della climatizzazione. Per cui un eccesso di isolamento, se da un lato riesce a ridurre e fino a quasi annullare completamente i consumi invernali, aumenta però i consumi estivi, soprattutto nella stagione intermedia. Cioè questi carichi interni è il calore che noi, quanto essere viventi, emettiamo e che emettono anche tutti gli apparecchi che abbiamo ormai in casa, che non sono pochi, tra computer, palmari, elettrodomestici, frigoriferi, c'è di tutto insomma. E questo produce calore che d'estate rimane intrappolato dentro. Sì, d'estate soprattutto nella mezza stagione, quando la temperatura dell'aria esterna è inferiore a quella dell'aria ambiente, che dobbiamo quindi climatizzare. Quindi se l'isolamento impedisce al calore di uscire, noi dobbiamo utilizzare altri sistemi. Altri sistemi che consumano energia. Certo, consumano energia sempre, perché è vero che potremmo sfruttare l'aria esterna per mandarla direttamente all'interno dell'edificio. Cioè ventilare molto, fuori magari ci sono 20 gradi, una temperatura ideale, dici ventiliamo molto, così anche questo consuma energia, tu dici. Esatto, perché di aria, l'aria conduce male il calore, per fortuna, perché sennò non ci sarebbe la vita sulla terra, oppure saremmo dei lucertoloni, ma comunque di aria ce ne vuole molto e quindi chiuderemmo le macchine, ma spenderemmo molto di ventilatori. Esatto. Ecco, però qui cominciamo a fare qualche distinzione, per esempio, tra abitazioni e uffici. Non è proprio la stessa cosa, questo ragionamento ha delle sfumature. Esatto, perché bisogna pensare che negli uffici l'affollamento delle persone è decisamente più elevato, quindi a parità di superficie i famosi carichi interni sono superiori. Sono molto più alti, più persone e anche più macchinari, di solito computer piuttosto che altro. Sì, non solo, siamo anche in fase con quelli che chiamiamo apporti gratuiti, che non sempre sono tali, come l'irraggiamento solare, cioè gli uffici sono pieni di giorno, mentre le case sono piene di notte. Soprattutto di notte. Ecco, per cui non bisogna mai eccedere con l'isolamento, ma soprattutto negli edifici per gli uffici, nei terziari, nei centri commerciali. Nelle abitazioni un po' di isolamento in più male non fa. Male non fa. Ecco, quando diciamo appunto isolamento in più, perché oggi ci sono dei limiti, no, di legge, cioè le costruzioni nuove devono avere un certo livello di isolamento, minimo, diciamo così. Ecco, questo valore attuale è un buon valore? Nei palazzi per uffici sicuramente è un ottimo valore. Diciamo che siamo centrati più o meno sul minimo assoluto di consumi, quindi non bisognerebbe mai eccedere. Addirittura nel sud Italia, anzi da Roma in giù, isolare come negli anni 90 o isolare con i limiti di legge dal punto di vista energetico non fa alcuna differenza. Bisogna però considerare che l'isolamento fa bene soprattutto al benessere. Ok, quindi c'è un aspetto importante, diciamo, di clima, cioè questo ragionamento che stiamo facendo è vero soprattutto per certi climi. È vero assolutamente per il clima mite italiano. È logico che, come dicevo prima, nelle case si può spingere un po' di più l'isolamento rispetto al minimo di legge, ma non bisognerebbe mai andare a fare quelli che chiamo i bunker termici. Certo. Nel nord Europa comunque si stanno accorgendo della stessa cosa. Se l'isolamento spinto va bene nel residenziale, non va più bene nei palazzi per uffici, perché anche loro rischiano di avere dei grossi problemi di surriscaldamento nella mezza stagione. È logico che in climi molto più caldi, come quello ad esempio degli Emirati Arabi, che era un'altra delle località su cui abbiamo focalizzato la ricerca, dove peraltro sono abituati a tenere temperature molto basse, di condizionamento a manetta, diciamo gradi, così. Ecco, lì l'isolamento fa solo che bene, perché mediamente hanno temperature sempre superiori. D'altronde, se ci pensiamo, se si va a nord nei climi molto freddi ci si copre molto, nei climi miti ci si scopre, nei climi molto caldi ci si torna a coprire molto. Un beduino non va mica in giro mezzo nudo nel deserto, perché ci sono 50 gradi, allora è meglio coprirsi e tenersi 36 corporei. Va bene, grazie Michele Vio. Grazie e buona serata a tutti. È tutto anche per questa sera, appuntamento a lunedì, buon fine settimana.